chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. 23 minuti primi, ci siamo finalmente, ce l'abbiamo fatta. Vai, dici pure tu, ci siamo in studio, Onda Rossa. Ma non, eccolo, vai, adesso ci sono. No, non ci sia, ci sono, ci sono. E se c'è la rivoluzione ce la perdiamo. Sì, no, arriviamo. Giuro, abbiamo detto 9:30 massimo si inizia. Io ho chiuso pure tipo 10-15 minuti prima, certo, il negozio. Certo. Non c'è verso, ecco, alzato troppo il microfono, ora regoliamo pure i livelli, facciamo tutto. 24 aprile 2024, che sarebbe 24/04/2024, che è già un numerino che insomma ha, no, una sua fisionomia. 22:33, che pure è un altro numerino, tipo che un'ora tipo un'ora di ritardo, ma cabalisticamente parlando questo è l'universo che parla. Sì. Cioè, che più che altro ci vuole mi vuole licenziare, dice basta, non c'è più, non... No, vabbè, ci siamo persi in chiacchiere, no, un'oretta. Meritate Renzi. Sì. Ce lo meritiamo, anzi. Ci siamo persi un'oretta di prove tecniche. No, a parte di prove tecniche di trasmissione che l'abbiamo fatte noi adesso, ma proprio di chiacchiere, perché non ci vedevamo e non parlavamo, chiacchieravamo, perché poi insomma sì, sembrano discorsi seri quelli che facciamo, ma insomma poi non sono così meno cazzari di quelli che poi intervengono durante 25 o'clock. Stavolta ce l'abbiamo messa tutta, mi pare, per questo 24/25 aprile. Eccomi. Sì, che poi pure prima c'è l'antefatto, cioè ci siamo sentiti tre volte, sì. Tre date diverse. Sì, sì, no, inizialmente era il primo, poi invece no, dai, devi combaciare tutte le cose. Il 24 cascava È il bello della diretta. 24 cascava a fagiolo, quindi abbiamo deciso il 24. No, il 25 però non l'avevo mai detto, l'ho interpretato te. Erano due date diverse. Comunque, vabbè, è uguale. Ho ancora gli SMS nel cellulare nuovo. Diciamo, non ho più il Nokia 8007, ma ho il Nokia 9000. Non è pubblicità, perché queste sono cose uscite fuori produzione ormai. No, questo è antiquariato. Sì, sì. Non solo antiquariato dei libri, diciamo, non solo libri antichi, ma anche telefoni antichi. Bene, bene. Come si chiamava il Motorola, quello con l'antennina che si tirava su? P7, boh, no. Forse. Ce l'avevo, Che ne so, boh, non sono mai stato esperto di ste robe, manco adesso. Se mi chiedi che cellulare c'è, ti rispondo, non lo so, che marca è, boh. No, allora, vogliamo dire dove siamo. 87.9 della Mozione di Firenze, la banda romana della serie, Radio Onda Rossa, 1977. Fra un mese, esatto, è la festa della radio, tu ci sarai, ovviamente. In ritardo. Qua sotto, poi il 25 e il 26 al centro sociale occupato e gestito Nia Viscona, via Prenestina 273, e vi abbiamo detto insomma già quello. Ah, poi il 25 aprile, domani piazza Nuccitelli, se non mi sbaglio con le cose, nel pomeriggio ci sarà la manifestazione, insomma, quella che si fa a Vigneto, eccetera, Centocelle, bla bla bla. La mattina c'è, cioè quella, la mattina dove si fischiano, c'è quella, le autorità. Esatto, dove si fischiano. Speriamo che non venga Gotor quest'anno. Va bene, comunque insomma, questo è quanto. No, appunto... Tra l'altro io su questa ho dovuto fare pure una scelta. Di norma io vado con la bandiera sovietica. quest'anno ho dovuto decidere quale desse più fastidio a quelli del PD e ho optato per una bella bandiera cinese. Ho capito, cioè hai valutato che fra l'anticomunismo storico e l'anticomunismo attuale, sì, loro sì, sono più anticomunisti, sì, attuali, sì, quindi gli dà più fastidio quella cinese. Come si dice, in socialismo, in... Con caratteristiche cinesi. Per essere precisi. Dunque, dicevamo 0649175050, recapito telefonico 25oclock@chiocciolaindossa.info per molestare il sottoscritto, fatelo. Fra poco apriamo anche la mail quando ci abbiamo un attimo di tempo. Onda rossa @chiocciolaindossa.info il sito. Onda rossa la mail. E poi cominciamo www.rossa.info e poi si inizia come dicevi te, ma qui è sbagliato ancora una volta. No, non ci credo. Don't think I know what to read or write or say. Glossaries injected. Radio abbonamento, sottoscrivete per la radio, andate su www.rossa.info, cliccate sul banner di sottoscrizione per il radio abbonamento 2024, abbiamo detto tutte, poi le ridiremo durante la trasmissione quando ci prenderemo un po' di tempo. Si parte, vi lascio l'avviso di disconnessione. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. I am you. e 43 minuti primi, l'altra voce ovviamente l'avete conosciuta, non so, Marco dei 38 Punk, che ha selezionato tutta questa roba qua che stiamo ascoltando. Questo è il disco, così abbiamo la traccia sotto per parlare. Non era una cattiva idea, però poi ci siamo incartati, nel senso, succedevano cose strane. C'era la playlist pronta. Stavamo per chiamare l'esorcista. Sì, partiva la playlist e andava avanti da sola, poi si cancellava, boh, insomma, poi era ricomparsa, però senza alcune tracce. Io avevo preparato pure il paletto di Frassino, la corona d'aglio. Sì, sì, sì, sì. Bene, 25 aprile 2024, manca poco più di un'ora. 25 aprile del 2024, 25 aprile dei 30 anni fa, mettiamola così. Come la vivi? Come si vive? Qual è la... non cos'è cambiato, insomma, ma qual è l'emozione diversa e anche il sentire, anche c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso? Il mondo sta cambiando, dicevamo. Il mondo sta cambiando, l'Italia è cambiata decisamente in peggio. Mi trovo in un'Italia più americanizzata. 25 aprile di 30 anni fa era un 25 aprile meno celebrativo, meno facile da intestarsi a chiunque. Cioè, comunque per intestarti il 25 aprile dovevi avere qualche merito. Oggi persino un Calenda qualunque si intesta un 25 aprile. Poi la manifestazione di Roma, diciamo, quella così, appunto, tra virgolette istituzionale, è anche meglio di quella di Milano, so, insomma, così si narra, perché pure a Milano, insomma, è abbastanza controversa la situazione. Ma a Milano addirittura il PD ha avuto la bella idea di sfregiare il 25 aprile portando in piazza, non so se l'anno scorso c'è riuscito a farlo, due anni fa sicuro, i Dente di Lupo, i Sonne Schwarz, dei gruppi piuttosto equivoci, neanche neonazisti, perché no, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Gruppi come Pravi Sector in realtà non sono neonazisti, sono proprio nazisti storici, perché si rifanno all'ON, cioè non si rifanno, sono proprio gli eredi diretti, cioè come dire il PD è l'erede dei DS, che è l'erede del PC. Ecco, Pravi Sector è quello che sul suo sito, fino a qualche tempo fa, non vado sempre sul sito di Pravi Sector, ma fino a qualche tempo fa campeggiava la scritta "partito ispirato ai valori del socialismo nazionale". Ora, non so che vuol dire per voi nazionalsocialismo, per me vuol dire una cosa, diciamo, sola. C'è sempre la solita storia, comunque. Però cambi l'ordine delle parole, perché se no è proprio uguale. Però se Parenzo dice che in Ucraina non ci sono i nazisti, io chi so per contraddirlo. Assolutamente. L'ha detto pure Mieli, che non ci sono nazisti in Ucraina. Ex potere operaio, no? Che io vedi, niente. Te sei qualcuno per dire no, che sbaglio? No, appunto. Io vango la terra, quindi, cioè, calcola te quale tipo di autorità c'ho io. Posso parlare dei lombrichi, va bene, però abbiamo detto non ci perdevamo in chiacchiere, perché già lo stiamo facendo, e quindi andiamo avanti con la scaletta, che c'ha un senso, e poi cercheremo anche di inquadrarlo. Possiamo fare qualche cosa. Ma che cosa vuoi fare? Come che vuoi fare? Dobbiamo lasciarlo morire così? No? No, no. Non si può stare sempre a guardare. Ma quello vive ancora. Dopo che è finito, no? Ma dove vai? Non serve a niente. Lasciate. La maga.

settembre 04, vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna. Fu accolto con il ferro dagli sbirri dei torloni. E quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero, faccia a faccia tra le barche, conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e il suo ricordo sfugge nella nebbia. Seria, sui campi di galleria, si dorme sui coponi, nelle stalle dei padroni, là sopra l'orologio, se guardi attentamente, c'è un'orsa che divora la testa di un serpente. Quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero, faccia a faccia tra le barche, conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente, 4 metri sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. E ancora 4 metri sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. E andiamo. Allora, volevi sapere come avevo, ne parlavamo. Come avremmo voluto che volesse, che sarebbe andata la cosa. Se non fossimo impediti. Se non fossimo, no, tu stai lì. Citando, no, ma citando no, Lino senso, Banfi nell'allenatore del pallone. Mi assumo tutte le la soddisfazione di aiutare chi sta peggio di noi, chi sta peggio di noi. No, gli handicappati, e vabbè, diciamolo. Le intenzioni erano. No, l'idea, quando me l'hai detto, poi mi sono messo un pochino a spulciare nella memoria, era quella di fare un misto di interventi sonori, radiofonici e cinematografici che ricordassero il percorso della liberazione dal nazifascismo fino a oggi, che purtroppo alcune persone hanno fatto diventare la caricatura di se stesso. Infatti poi si chiude con un famoso discorso fatto da un famoso, per fortuna, ex presidente del Consiglio. Tanto mo ce lo ritroviamo in Europa, quindi. Quello però verso la fine, voglio. Quello verso la fine. Non scopriamo le carte. Quando sì, ormai hanno già stuprato la memoria e il sacrificio di tanti e tante che. Sì, ma poi penso che via via che andremo avanti ci sono tanti interventi, tanti clip che comunque danno l'anima, secondo me, tanti racconti che ormai abbiamo perso perché. Non so se tanto sono... aspetta, no, sì. Io posso mettere all'attivo questo aprile la soddisfazione di dire che finalmente YouTube ha censurato i 38 Punk. Ah, vedi, vedi. In base alle direttive UE contro la disinformazione, il video di delitti di Stato è stato vietato ai minori di anni 18. Quindi noi siamo con il primo, orgoglio, con orgoglio. Primo gruppo punk italiano vietato ai minori di 18 anni. Se ci mettevamo nudi, sicuramente inorridivamo qualcuno, ma non ci censuravano. Vabbè, questo da un po' le. No, io ringrazio YouTube perché posso fare la vittima. Era una vita che volevo dire, ci hanno censurato. No, vabbè, dai, qualche volta qualche equivoco pure in precedenza, insomma. Sì, per carità, ma essere censurati da YouTube oggi. Sì, è cioè, un vanto. È un quella vanto, marcia stelletta, in più. È una stelletta che ti appendi sopra. Anzi, dovesse parlare nei concerti quando suonate. Cioè, insomma, è come se a Bonino dice, questi mi fanno schifo. Cioè, meno male, cioè, mi preoccupavo. Un attestato di benemerenza. Allora, invece, mentre Pat continua sotto la nostra voce con le sue ballate, quella che abbiamo ascoltato nel 1904, perché 1904 di Pat? Perché è un po' di anni prima, no? del 21, del 22. Della marcia su Roma, eccetera. però Pat ha fatto una ricerca, Simone ha fatto una ricerca, andare a cercare le storie, diciamo, di inizio secolo proprio nel territorio che, su cui viveva, e l'ha raccolta, ci ha studiato, ci ha fatto questa ballata che racconta proprio di una mobilitazione, di una rivolta contadina, ovviamente finita nel sangue, nel 1904, nell'epoca della monarchia, dello stato monarchico, diciamo tra virgolette, quello di Bava Beccaris, quello democratico, tanto per capire poi qual era il tessuto, il sottostrato su cui il fascismo poi si è andato ad affermare. Che poi, ecco, io volevo condividere rapidamente una riflessione, che quando mi dicono non c'è più il fascismo non c'è più, non ha più senso festeggiare l'antifascismo, riflettiamo un attimo su che cos'è il fascismo, proprio pensando a quegli anni. Al netto del folklore, del folklore orribile, delle camicie nere, dei facendo quella cosa che si chiama analisi materialistica, che adesso sì, fascismo, che cos'è il fascismo? È il fallimento della moral suasion, della democrazia liberale. Ovvero, io ti racconto delle cazzate, ti dico che se ti impegni e se fai il bravo avrai successo, avrai soldi, avrai la villa, avrai la macchina, avrai tutti gli annessi e connessi, e poi, siccome la coperta è corta e siccome proprio il capitale per natura tende ad accumulare, quindi non ce n'è per tutti, quando la gente si comincia a accorgere che quelle che mi hai raccontato sono cazzate, magari si comincia pure a ribellare, e il fascismo serve per convincerti con le cattive. Cioè, se io non liberale non sono più capace di intortartela, allora uso il fascismo. Il fascismo è il cane da guardia. Però prima di arrivare troppo all'attualità, no semplicemente questo, esattamente come cioè pochi lo sanno, ma il fascismo non nacque come partito. I fasci da combattimento erano un'agenzia privata di picchiatori assoldati dalla borghesia sabauda, che era terrorizzata dal Biennio Rosso, e da allora il fascismo è sempre stato l'utile idiota del capitale, in Cile con Pinochet, in Grecia con i colonnelli, in Ucraina con Zelensky e Pravi Sektor, in Italia No, questo è assolutamente lampante, quando comunque appunto i famosi regimi autoritari, no? Quando poi fanno comodo diventano, cioè quando fanno comodo appunto. Il fascismo fu inizialmente in buonissimi rapporti con la corona britannica, insomma. Churchill fino all'ultimo gli voleva salvare la vita. Pertini fece il diavolo a quattro per farlo fucilare sul posto al Puzzone, proprio perché gli inglesi lo volevano vivo. Vedi mai che potesse servire in un futuro. Andiamo avanti. Non c'è nessuno, non voglio niente, niente da nessuno. Thank you. serve coprire le nudità. Il sangue e la memoria sono una cosa sola. Sei più impegnati dopo un Dacco di Anzio nella lotta partigiana, hanno dato anche molti caduti. I ragazzi devono sapere che questi uomini, queste donne che combattevano, che si erano schierati contro i fascisti e i nazisti, erano stati mossi non da un interesse personale, ma proprio da una ribellione interiore verso il fascismo e verso il nazismo, per quello che significarono, che avevano significato la dittatura fascista, per quello che erano stati gli ideali che questi avevano imposto dopo la presa del potere in Germania e in Italia. Ora, queste due, le motivazioni della lotta partigiana vengono fuori da un volontariato che lo dice bene Calamandrei quando dice: volontari ci unimmo per dignità, non per odio, per riscattare all'Italia l'onore. Ed è vero, perché il fascismo aveva disonorato l'Italia con tutte le guerre che aveva fatto, con le ferite in Abissinia, con la guerra di Spagna quando a Guernica avevano ucciso più di 1000 bambini, quando dopo Guernica e dopo la Spagna avevano fatto l'invasione dell'Albania, quando la Germania comincia la grande avventura guerrisca con l'aggressione prima all'Austria, che i ragazzi devono sapere che con il consenso delle democrazie francese, inglese, avevano occupato l'Austria, avevano occupato poi anche dopo Monaco anche la Cecoslovacchia e marciavano verso est. Quindi la presa della Polonia era imminente, era nell'aria, si sapeva, e avevano cercato proprio stesse democrazie occidentali di spingere le mire espansionistiche di Hitler verso est per levarsi di torno il pericolo che potesse aggredire la Francia. È chiaro, i ragazzi devono avere chiaro questo. Di fronte a questa volontà di espansione della Germania, che con degli slogan che sono gli slogan più tremendi, quelli che dicono che il Dio era con loro, che le ragioni della resistenza d'Italia vengono fuori da una indignazione, da un ripudio del fascismo proprio che è cresciuto dentro l'animo della gente, perché c'è stato un momento anche di consenso verso Mussolini e verso le sue avventure, perché aveva promesso l'ordine, aveva promesso la grandezza dell'Italia, aveva identificato il fascismo con la patria, per cui la gente credeva che non essere fascista significava non essere italiani, e questa confusione nella testa dei giovani ha portato tanti giovani a battersi con eroismo, con entusiasmo per il fascismo in Abissinia, in Spagna. Noi non rinneghiamo quelle morti, anzi diciamo, poveri ragazzi, hanno combattuto per una causa sbagliata, ingannati, sono stati i primi ingannati da Mussolini. E vedete, la cosa strana, e voglio che ci spaziate solo una riflessione, che proprio quella gioventù littoria che Mussolini si era cresciuta con quegli slogan: se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, meglio un giorno da leoni che 100 da pecora, e tutti slogan assurdi per esaltare i giovani al combattimento, la premeditare, il fuciletto, e poi dopo questa gioventù littoria dove è finita? È finita sulle montagne a fare i partigiani, perché si è rivoltata, perché quando li hanno chiamati in guerra, li hanno chiamati per aggredire la Grecia, stroncheremo le regne alla Grecia, e poi che cosa hanno fatto in Grecia? Erano andati là nella neve, avevano detto che era una guerra lampo, in 3 giorni avrebbero conquistato tutto, invece le scarpe si disfacevano nella neve, e i greci difendevano bene la loro patria, li hanno ricacciati indietro, e la guerra di 3 giorni è diventata una guerra di mesi, e sono tornati centinaia e centinaia di giovani con i piedi congelati. E quei giovani cosa volevano pensare? Ma chi ci ha dato queste armi? Loro andavano col fuciletto 91, quello della guerra 14-18, e gli altri avevano ancora armi più moderne. E la guerra è stata fatta, avevano detto che noi avevamo 9 milioni di baionette, ma non si fa con le baionette la guerra moderna. Quindi Mussolini aveva ingannato il popolo, e poi il popolo italiano non voleva la guerra. Perché doveva fare la guerra? Perché doveva aggredire dei popoli che non gli avevano fatto niente? Non c'era motivo, non c'era ragione di aggredire popoli che vivevano la loro storia, le loro tradizioni nei loro confini. Quindi la prima condanna è venuta nell'animo della gente, c'è stato come un rovesciamento delle coscienze. La gente ha sentito che bisognava ripudiare questa guerra, e quando ci fu il bombardamento a San Lorenzo, la prima manifestazione più grande fu fatta intorno al Papa, e la gente gridava pace, pace, cioè voleva la pace. E infatti non ci andò Mussolini a vedere il primo bombardamento di San Lorenzo, non è andato nessun gerarca, perché furono fischiati quei pochi che andarono a San Lorenzo dopo il bombardamento, dove pare, non si sa mai, non si è mai saputo il numero dei morti, ma sono più di migliaia di morti che sono sotto le macerie di quel quartiere di Roma. Esplode, sfigura i contorni del giorno. parole nel sangue, lottare per la libertà. Nel caricatore del mitra restano sia 9 e 10 colpi. Di Nanni toglie un proiettile e se lo mette in tasca, poi prende la mitra tra le sbarre e spara. Il primo nazista cade, il secondo lo manca, ma il terzo no. Ora sparano dalla strada, dal campanile e dalle case intorno. Gli stanno addosso, non ha più scampo. Toglie di tasca l'ultima cartuccia, la innesta e arma il carrello. Forse sarebbe il caso di finirla qui. E mentre intorno sparano ancora, punta il mitra al campanile e aspetta. Quando viene il momento mira con cura e l'ultimo fascista muore sul colpo. Adesso non c'è più niente da fare. Allora Di Nanni si alza e in piedi aspetta i suoi colpi. Ma intorno solo silenzio. È quel momento che Dante si sporge, chiude la mano in un pugno e si getta di schianto. :23:15, 87.9 la modulazione di frequenza, le frequenze di Radio Onda Rossa. Ci siamo quindi ai Resis, Dante Di Nanni, dopo aver ascoltato Carla Capponi che ci dava le sue tre motivazioni per cui il fascismo è nato, l'antifascismo, cioè è crollato dall'interno tutto quel quella costruzione di cui parlavamo anche prima, insomma, infatti. Ma sì, sostanzialmente poi la base del fascismo, quella che credette al programma de Sansepolcro, era quella che Gramsci chiamava i proletari che sbagliano, i proletari confusi. Ovviamente quando parliamo di fascismo non parliamo di quella base, che è la base che viene pescata nel disagio delle periferie. Che come dice appunto Carla Capponi, non alla prima occasione, ma quando si illuminò la lampadina passarono a fare i partigiani, insomma. Ma sì, anche perché poi il fascismo vero li odia questi, e infatti non si fa nessun problema a mandarli a morire. Non c'è proprio nessuna contraddizione in termini in questo. La famosa carne da macello, insomma. Ma lo vediamo oggi appunto nei campi dell'Ucraina. Ma poi tra tanti fascisti che ho citato, cioè della gente che fa la guerra per qualche motivo, alle volte più motivato, alle volte assolutamente indotto, e che servono poi alla grande potenza essenzialmente. Sì. Poi tra i tanti fascisti che ho citato me ne mancava uno, nonostante la religione, possiamo dire che Netanyahu è un fascista? Sì, beh, ci stanno delle così. Anche persone storici importanti, insomma, anti-sionisti, insomma, con tutte le carte in regola, dicono no, Israele non è fascismo, e motivano questa cosa, diciamo. È una cosa differente dal fascismo. Però vabbè, questo fa parte della, all'apparenza sembrerebbe proprio di sì, insomma, poi magari in un lavoro più dottrinale, più teorico, più basato su si troveranno le differenze con quelle che sono le caratteristiche tipiche del fascismo storicamente individuato, insomma. Poi vabbè, lasciamo per ora così in sospeso la cosa, però insomma non hai detto un'eresia, ecco, è una cosa che ci sì, no, a pelle mi verrebbe da dirlo, ecco. I ragazzi sono stati, non voglio più aspettare. Allora, mentre Razza a Parte ci tengono compagnia, andiamo a sentire il racconto di Via Rasella, da parte sempre di Carla Capponi, tanto per dare un altro tassello, un pezzettino dalle voci che ormai non ci sono più, che però fortunatamente, insomma, è facile ritrovare in rete. Anche insomma, un tempo era molto più difficile, ormai diciamo è tutto abbastanza sulle piattaforme. finché non le censurano. Finché non le censurano, ma evidentemente non nuociono abbastanza perché vengono considerate. Sì, tra l'altro io consiglio a tutti di aprirsi una scialuppa di salvataggio sulle piattaforme non mainstream, perché visti i tempi non si sa mai, almeno avete un piano B. Noi, vabbè, noi Facebook proprio non ce l'abbiamo, però abbiamo un VK e visto la malparata, oltre a YouTube, ci siamo aperti un Odyssey. Benissimo. Per spostare ai compagni che dovevano operare le quattro bombe Brixia che poi saranno utilizzate contro la colonna tedesca. Il mio compito era di fare la copertura al Bentivegna, però mi dovevo recare qui ed attendere un segnale da Pasquale Balsamo. Il messaggero quel giorno riportava l'eruzione del Vesuvio, se non che due poliziotti mi si fanno vicini e mi chiedono i documenti. A questo punto Pasquale Balsamo, che ha visto che io ero fermata da due persone in borghese che ha intuito essere poliziotti, si attraversa la strada e mi viene vicino. Fa finta anche lui di mettersi lì come a leggere il giornale e mi mormora qualche cosa che io non capisco. Mi avvio verso via Rasella, quindi mi incammino. Quando arrivo all'altezza del giornalaio, dall'altra parte della strada vedo Giorgio Amendola e mi domando: ma che ci fa lui qui? Perché lui sapeva, ma proprio perché sapeva non doveva essersi, perché era riconoscibilissimo, un uomo altissimo, assolutamente molto riconoscibile. Volto e poi mi reco lungo questo pezzo del Tritone e vedo schierati tutti gli altri. Questa è via del Boccaccio, che attaglia via Rasella. Oltre di là c'è via dei Giardini. Io vedo Salinari che è all'angolo giù di quel palazzo che è verso il lavatore. Calamandrei che è qui all'angolo di via del Boccaccio e cammina, perché ognuno aspetta prima di prendere la posizione finale, il segnale di Salinari che ha avvistato i tedeschi che arrivano. Ma questo segnale non arriva per diverso tempo. Ora, il carrettino che era lì occupava un po' della strada, per cui i tedeschi, salendo, dovevano evitarlo e quindi fare una piccola conversione. E questa conversione comportava un rallentamento anche della loro marcia. A questo punto già sono passate diverse ore, erano quasi le 3:40, quando vedo comparire sul fondo della via Rasella il gruppo dell'avanguardia tedesca, cioè avevano come una pattuglia che li precedeva, e dico: ecco, lì sono arrivati. Ma quando siamo all'angolo l'esplosione è avvenuta, avviene, e lo spostamento d'aria si getta quasi per terra, gli ha come una spinta sulle spalle. Dalla parte di via Quattro Fontane c'è un autobus che viene sbandato e va contro i cancelli del Palazzo Barberini. I poliziotti che si erano spostati qui e che avevano visto l'esplosione, che attraversano la strada di corsa con la rivoltella in mano. Io tiro fuori la rivoltella, faccio segno verso di loro e loro fanno dietro al front e se ne ritornano in giù. E certo! Su comunisti della capitale hai giunto ormai il denaro e causa quando alzeremo su fratonera le bandiera rossa. Questa città di vele mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la luna. Ventena più di tirania fascista, le carcere con pene da bastone, non hanno meno mando al comunista. La convenzione, la convinzione di una nuova era, che al mondo mostrerà la redenzione. 1 e 27 minuti primi, quindi Carla Capponi ci ricorda, ci racconta un po' quello che lei visse quel giorno in Via Rasella. E poi di seguito non poteva esserci, insomma, che l'inno dei comunisti romani, e quindi nelle due versioni di Banda Baciocchi e Palcoscenico Neon. A te! A me! Allora, a proposito di comunisti della capitale, domani che fare? Quali sono gli appuntamenti? Intanto quello della mattina per me, lo so che molti compagni e compagne storceranno il naso, però per me è importante esserci e non lasciargli lo spazio libero. Ma io penso quest'anno, già l'altro anno, ma anche quest'anno, vasti settori del movimento, insomma, comunque ci saranno in piazza, da quello che così abbiamo percepito così dai microfoni e dalle stanze della radio. Io spero anche tanti compagni e compagne palestinesi. Certo. La brigata ebraica? Non pervenuta al momento. Ah, mannaggia. Ci sono anche in rete, non li andiamo a citare, però insomma ci saranno anche delle interessanti così, anche qui racconti di, come si direbbe oggi, fact checking, no? Riguardo quello che fu l'intervento della brigata ebraica. Tra l'altro poi ci sarà anche, sì, tanto sì, per chiarire, mi ha fatto uno anche il mio amico Fazzolo. Esatto, io mi riferivo anche a quello. Diciamo sulla copertina di questa trasmissione già c'è la copertina e ci sarà un pannello, diciamo, che di ricostruzione di quello che sarà un pezzo di resistenza e di come fra partigiani e i prigionieri ebrei rinchiusi appunto nei primi campi di concentramento, comunque anche italiani nel nord d'Italia, in realtà ci fu proprio uno degli scopi, diciamo, della guerra partigiana era proprio andare a aprire questi campi di concentramento per far uscire la gente, poiché appunto non si riconoscevano assolutamente come parte, pensiamo, insomma. Ma guarda, una delle poche cose che mi fa essere orgoglioso di essere anche romano è che nella pagina buia in mezzo all'infamia del rastrellamento del ghetto di Roma c'è anche la pagina gloriosa di tante persone X, tante persone che non erano, non sono e non sono mai state nessuno, se non persone, e che hanno nascosto gli ebrei, li hanno protetti, hanno detto no, io sto schifo, non in mio nome. Assolutamente, quindi per cortesia non andiamo ancora una volta a mischiare due cose che sono assolutamente, cioè non sappiamo più come dirlo, ci stanno fior di intellettuali che stanno rovinando le carriere semplicemente per sostenere una cosa banale, cioè sono due cose distinte, si può essere antifascisti, antisemiti e allo stesso tempo anti-sionisti, vedete, poi questo è il bias, no, che si crea. Ma guarda, io ho scoperto con mia grande sorpresa essere razzisti verso gli ebrei è proprio qualcosa di che noi abborriamo, cioè nella maniera più ma guarda, io ho scoperto con mia grande sorpresa che ci fa schifo sta cosa, è offensiva, c'è una grande guardie, e come diceva qualcuno in radio giustamente è controproducente, perché comunque crei un sentimento, esatto, cioè non vi accorgete che se sta che appunto a chi sostiene lo Stato di Israele e il governo di Israele in particolare, cioè sta facendo veramente un pessimo lavoro per un pessimo servizio anche. Questo servizio, certo. Ma d'altronde non è un caso che, ma nemmeno ai suoi concittadini, perché alle volte manco so concittadini, si sta radicalizzando una questione che non è affatto radicalizzabile, insomma, non esiste, è un problema che non esiste. Basti pensare che l'ebreo ortodosso è di suo antisionista. Tra l'altro ci sta tanto e tanta varietà di ma buona parte delle proteste contro il genocidio vedono partecipare anche organizzazioni ebraiche. Negli Stati Uniti la maggior parte delle persone sono proprio organizzazioni e singole persone che, diciamo, appartengono alla comunità ebraica o hanno una religione di tipo ebraico, ma questo non è, è assolutamente lampante. Per fortuna che appunto noi ci abbiamo ben ferma e ben salda questa idea, perché sennò altrimenti appunto saremmo quelli dall'altra parte del 25 aprile. Esatto. Al vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria delle ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Che ti poteva portare a contatto con quelli della resistenza, uno proprio del posto, uno di quelli che faceva il servizio di collegamento di staffetta, no? Con le brigate partigiane, e mi dette l'appuntamento, e così di lì camminai addirittura una giornata intera, dove mi trovavo le piastre, raggiunsi la formazione oltre lago Scaffaiolo, tutto l'Emilia, il Monte Scimone, fino a Santa Giulia, sì, Santa Giulia, una frazione del Modenese, mi pare, provincia di Modena o Reggio Emilia. E trovai appunto questa formazione di Toscana, era una brigata autonoma di toscani che agiva in stretto contatto col comando emiliano, no? Le famose brigate di generale Armando, un personaggio molto noto, una specie di Ilio Barontini per noi livornesi. Era addirittura un mito, chi lo rammentava, chi faceva riferimento, è come avesse, che so io, fatto il nome del Padre Eterno, per dire la popolarità che aveva quest'uomo in quel periodo. Mi mette a contatto con una realtà che mi sembrava quasi un fango est, no? Di pistoleri all'americana, perché ognuno era vestito a modo suo, chi aveva, che so io, un berretto militare, chi aveva un cinturone o un mitra, una pistola, anche le donne. E per me la fantasia mia mi esaltava di più a vedere tutta questa gente di diversi usi, costumi, colori, addirittura sembrava veramente un film di quelli all'americana. E la zona era appunto quella liberata da Armando, no? La famosa zona denominata la Repubblica di Montefiorino in Emilia, no? E che è durata parecchio il mantenimento del territorio liberato, fino a che poi i tedeschi in forze riuscirono a riconquistare la zona, e anche lì ci è costato morti e feriti da parte nostra. E l'hanno fatto di tutti i colori lì, i tedeschi, i fascisti. E siccome noi eravamo una brigata autonoma di toscani, che evidente non potevamo avere una base fissa, ci avrebbero scoperto, eravamo sempre in movimento, si camminava parecchio, si sostava la notte però da un paese all'altro, e lì con le azioni che venivano svolte di sabotaggio sulle strade, blocchi stradali, dei ponti, tutto quello che comportava la guerriglia, no? Che una volta che era stata sconfitta, diciamo, la Repubblica di Montefiorino, la Repubblica Partigiana di Montefiorino, la resistenza, evidente, morde e fuggi, è durata fino a che poi si sono liberati altri territori. E arrivò al punto che ognuno poi aveva il compito di scendere nel paese, liberare la zona, il territorio, e a me mi toccò lì in Garfagnana, ancora a Corelli e Altemielli. Ci collegammo con delle unità di combattimento brasiliani, erano, non? E dopo un certo periodo breve, più o meno, di conquista del territorio, di amministrazione della gente, si decise poi di andare a casa. Era l'appello di Ercoli, che si trova lì, no? E di Palmiro Togliatti, governo legittimo costituitosi allora, no? Emanò un bando di arruolamento, sì, per dare corpo a queste divisioni, no? In tutta Italia, rivolta ai giovani, in modo particolare anche a coloro che erano già state anche partigiani e liberi dai posti mano a mano che si liberavano. E allora con questo appello quasi tutti, perlomeno la brigata dove ero io, la Bozzi, ripartimmo. E si prosegue con gruppi di combattimento, a me mi toccò il fronte di Bologna, addirittura su delle carrette cingolate. E io da Bologna fino a Milano l'ho fatto su queste carrette. È stato tutto un trionfo. Da Bologna, strada facendo, su queste carrette, in mezzo a due alonne di popolo che applaudivano, gettavano fiori e facevano tutti i onori. Era una brutta cosa. Però quando scoppia la pace, proprio perché sono fatto tanto prima, potete immaginare la gradazione della contentezza, dell'entusiasmo, è inimmaginabile per chi non l'ha visto. Io avevo detto bruciarsi nel corpo di un altro, così senza farsi notare, ci sarà pure un motivo. Bruciarsi nel corpo di un altro, ci sarà pure un motivo, ci sarà una ragione. Tirato fuori la pistola e gli ho sparato. Io odio le armi, però io da partigiano ho imparato che se non avevo questo, io sarei marcito in galera, sarei stato ammazzato dai fascisti e dai loro padroni. Quindi ecco perché voglio che prendiate anche questo fucile che è come simbolo. Noi abbiamo trasformato le nostre cellule in cellule di combattimento, pronti per quando il fascismo si arrendeva ai tedeschi, quando sarebbe finita ufficialmente la guerra, per combattere contro i tedeschi e contro il fascismo, e soprattutto contro il capitalismo. Hai sempre abitato. Spalla caricata, palla sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto. Col parabello e spalla caricato a palla sempre ben armato, paura non ho, quando avrò vinto ritornerò. We'll be right back. donne scitte, fascisti sparivano, filando ai ribelli, abbiate pietà. We'll be right back. Onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza, ma qui sembra che non si ascolta nulla. Qual è il motivo? Per cui te non mi senti? Io come no? Ti sento forte e chiaro. E non c'ho ritorno in cuffia perché ho messo un preascolto, è chiaro? Eccoci qua. Questa sera la tecnologia non è dalla nostra parte. Beh, poi ci siamo un po'. Sì, abbiamo cercato di fare tutto in maniera coordinata, invece sembravamo. Dovevamo fare tutto alla cazzo mannaggia, sì, e veniva tutto perfetto. Sembravamo un pochettino più, però ci stiamo. Quello che raccontava Giuseppe Fusario sulle bande partigiane, insomma. Mi sembrava più, diciamo, la prima parte del. È così, sì, tutte stelline. Va bene, allora andiamo avanti col partigiano suo e poi, uh-huh. E poi aspetta che ci prepariamo un attimo. Ci prepariamo, è una parola grossa. Quando mi masturbo c'ho l'ansia da prestazione. Senza Dio, famiglia, senza una nazione. Cammino nel mondo senza una direzione. Tra futuro e passato, vola via in un lampo. L'esistenza di ogni uomo anche per me non c'è più. È una commedia infinita, perché nessuno mi aiuta, e anche tu gitana, perché rimani lontano, da molto lontano, proviene la linea di questa mia mano, quello che sono è il risultato di ciò che sarò e di chi sono stato. Lontano, da molto lontano, proviene la linea di questa mia mano, quello che sono. Che sia meno razionale del presente. E anche quell'istante che hai bloccato, più ci vai dentro più è complicato. Più ci vai dentro più ci trovi in infinito. Perché nessuna astronave ti può portare così vicino all'infinito da poterlo toccare. È così vicino agli occhi che non lo puoi vedere. È in quella musica, è in quell'odore. E questo è la microfono da complesso. Sei così sicuro di conoscere te stesso. Chi ero ora sono, chi sono sarò stato. Il tuo presente si agogna e chi ha. Questo è il nostro difetto. Noi siamo andati volontari al bosco. Non si è chiesto nulla e nemmeno si è voluto nulla. E siccome io non ho chiesto nulla a nessuno, mi posso anche permettere il lusso e mandarli a fanculo tutti. Questo sia presente. Se vuoi un bicchiere di spuma? Adriano. nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti. Dopo la mezzanotte ed è già 25 aprile buona liberazione a tutti, e a tutte. Dunque sì, questa sarà dura, questa no non sarà dura. Due minuti e quanto? 2 minuti e 16 minuti di Russo Spinto, di Russo Spinto degli anni 40, però era fondamentale metterlo perché sì, questo è... ti avevo dato dei tagli due ma... minuti sono indispensabili. Sapevamo degli effetti speciali li avremmo usati, non no, ce li abbiamo. Li faremo, ci inventiamo. Però il documento storico è importantissimo perché questo è Yuri Levitan ed è l'annuncio da Radio Mosca della caduta di Berlino. Приказ верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям! павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин! Pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle. Riparte, dovrebbe ripartire. E va, è ripartito. Quindi abbiamo sentito 2 minuti e mezzo un sotto di Russo degli anni 40. Un sotto Bella Ciao, insomma, è purtroppo, è defetto, però purtroppo screditata negli ultimi anni. Una volta era una canzone. Sì, l'hanno cantata pure i nazisti ucraini, quindi. Sì. Diciamo è ormai così. L'ha cantata pure Gualtieri, cioè una volta l'ha cantata Gualtieri. Ha perso quello che era il suo significato originario. Abbiamo cercato prima con gli audio anche di inquadrare un pochino, no, quale era anche gli ultimi audio che dicevano sì, vabbè, ma noi sì, certo, abbiamo fatto le cellule perché noi eravamo contro il fascismo, ma eravamo anche contro il capitalismo. Che questo la dice un po' lunga di quello che fu la guerra partigiana e almeno di quelle che erano le intenzioni di molti dei protagonisti di quella storia. Sì, cioè, c'era Pietro Sicchia, il partigiano che non voleva deporre le armi. Certo, un po'. E invece noi che abbiamo ascoltato dopo... Ma dalla voce... dalla voce direi che c'è un conflitto di interessi. P38 Punk, Fischi al vento. E... non l'abbiamo preparata, no, non l'abbiamo, assolutamente. Non l'abbiamo preparata, ma i P38 li abbiamo sentiti solo in disco? No, allora, intanto li abbiamo sentiti a gennaio all'Init, al nuovo Init, ma abbiamo adesso a giugno un concerto benefit. Il cui ricavato andrà interamente, quindi prendiamo né noi né tutti quelli che suoneranno con noi un centesimo, quindi potete versare la vostra sottoscrizione sereni che noi non vedremo un soldo, ma andranno tutti alle popolazioni di Gaza in medicine, vestiti, beni di prima necessità. E rispetto a quale associazione, quale è un ponte per sarà l'Acrobax, saremo noi ovviamente di 38 Punk insieme a Villa da Posse, Enrico Capuano, nostro vecchio amico, Cristiano Ra, Ciclo di Betè, Mom Quartet, credo di averli pronunciati bene. Io purtroppo di jazz non conosco niente, loro fanno jazz, quindi se ho sbagliato mi scuso. È un'occasione perché siamo i più pischelli. Siamo proprio i più giovani, che figo. Di solito fai i vecchietti le... Sì, di norma quando ti dico gruppo storico è un modo carino per dirti che sei uscito dal sarcofago. Invece stavolta siamo noi ragazzini. E vabbè, comunque dai, il 28 giugno è lontano, avremo modo magari di riparlarne, di sentirci, di presentare comunque questa iniziativa importante, appunto. La scelta è stata volutamente variegata, abbiamo cercato di spaziare in tutti i generi, proprio perché è importante che la maggior parte di, cioè il maggior numero di persone intervenga, ma soprattutto sia raggiunto da quello che è il messaggio, lo scopo di questa iniziativa, che è portare sostegno a una popolazione che è... Come facevano, abbiamo raccontato prima, i partigiani, sì, assolutamente in linea, non son degno, cambiano i soggetti, però insomma ci proviamo nel Dio, piccolo, il paragone ardito. Nel nostro piccolo, insomma, siamo partigiani del 2024, questo ci ha concesso, ecco. Sì. Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici, da esso ordinata, è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Sempre con un po' di difficoltà, però. Vai. Le tecne stasera non ci aiutano. Niente, non riesco proprio a fare. Tempi più lenti e la vecchiaia avanza. I 25 aprile che si accumulano. Si accumulano comunque sotto la nostra voce. Erode, Stalingrado. Dopo aver ascoltato un documento storico. Sì, l'annuncio della morte di Mussolini. Del Puzzone e di tutti gli altri. Da un comunicato radio originale. Sì, sì, ho volutamente scelto alcuni comunicati radio proprio per la dimensione radiofonica di stasera. Assolutamente. Cioè, pensa che bello. 16 minuti dopo la mezzanotte. No, ma io ho sempre trovato poi molto romantico l'idea che in una sera prefestiva dove tutti girano, tutti vanno a ballare, a bere, a fare quello che si fa nelle sere prefestive. Noi due vecchi nerd stiamo in studio. Veterissimi proprio. La trasmissione più vetera degli ultimi anni di Radio Andalus. È molto bello. Da capo. Anche questa è una pecetta come la censura di YouTube. Vai, da capo Erode Stalingrado. È andato bene fino a un minuto e 44 prima della fine, però non c'è niente da fare. Penso che passiamo avanti, andiamo avanti. Onda Rossa 19 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, giorno della liberazione dal nazifascismo. Tecnologia. Liberazione armata, diciamolo, perché insomma. Oh, vedi. Sì, questa beh. È la tecnocrazia. Sì, però ha bisogno visto di un po' di tifo, no? Un po' di guarda che è il 25 aprile, allora. Gliela fai. Hanno un'anima. We'll be right back. quello che decide l'Unione Europea. Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire qualunque sia lo strumento che considereremo più importante, più efficace per permettere una pace. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, schiettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore contro un muro, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore contro un muro, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva in padre, pagine leggiadre, la storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti, dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore contro un muro, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Lo so che bisognerebbe stare sull'attenti, insomma. Si alzava, sì. Una volta ci si alzava in piedi. Sì. Infatti, no, sull'attenti. Si alziamo in piedi. È una roba militare, ci si alza in piedi, giusto. Però perché Draghi e poi invece Viva Palestina di... Allora, Draghi... Ci sarebbero milioni di modi per commentarlo, però diciamo che dopo 2 anni si commenta da solo. Cioè è facile Draghi adesso. All'epoca potevi fare dibattiti, ma dopo 2 anni dove loro hanno fatto scommesse su tutto, perdendole, i russi durano 3 mesi, vanno all'assalto con le pale, le sanzioni li stroncheranno, da Netanyahu che dice stroncheremo Hamas, libereremo gli ostaggi, cioè tutto quello che hanno detto sono cazzate, e cioè se lo vedono da soli, quindi è facile. Cioè, io sapevo che Draghi l'avremmo affrontato a quest'ora, che eravamo stanchi, e quindi cioè, non c'è bisogno, no, di commentarlo. Pensavo un'altra cosa, no? Che hai voluto fare un accostamento con Draghi che parlava di una situazione internazionale. Probabilmente fra un po' di tempo, se tutto evolve secondo gli schemi, diciamo, dei guerrafondai, ci sarà una crisi o comunque una serie di pressioni molto pericolose sull'arco delle isole del Pacifico di fronte alla Cina, e nel frattempo sì, un po' così improvvisamente, ma un po' era un fuoco che covava sotto la cenere, insomma. Si doveva aspettare, forse c'era qualcuno che... No, la Rand Corporation diceva che la cosa va fatta entro il 2025, se no poi è troppo tardi. Ok, vabbè, se forse no, per quello che dicevamo fuori. Prima, che diceva addirittura però, D'Alema, riferendosi a un articolo, a uno studio fatto da Standard & Poor, mi pare, magari cito male, in cui diceva... Sapete che poi con quella sicumera tipica di D'Alema, che però diciamo che si crede ancora adesso intelligente. Sì, si crede ancora adesso intelligente, e che ci dava appunto questo studio ridacchiando, no? Perché diceva poi. Perché è intelligente. Non sono sicuramente Standard & Poor's, non sono sicuramente dei socialisti, no? Che nel 2078, 2075, cioè, oggi, aspetta, fermate, contestualizziamo, perché sentendo parlare per esempio Craxi di Palestina, certo, sembra un bolscevico. Certo. E diceva appunto, guardate che nel 2075, 78, quello che è la Cina sarà la più grande potenza del mondo, e questo è facile da comprendere, stante, certo, nulla è così scontato, però diciamo, stante il trend attuale, l'India sarebbe la seconda potenza mondiale, poi gli Stati Uniti e poi tutta una serie di stati tipo l'Indonesia, il Brasile, insomma tutta una serie di luoghi del mondo che acquisterebbero un ruolo di centralità appunto in questo mondo che si parla di tipo multipolare, che si maneggia di tipo multipolare. Ma che si sta strutturando, certo, che sta partorendo. È un grande caos, c'è grande confusione sotto il cielo. Cioè sarebbe da andare a casa del dottor, sotto casa del dottor Fukuyama, e fargli No, ma pare che abbia smentito comunque. Ha detto mi sono sbagliato? Sì, ha detto mi sono sbagliato. Anche lui ha sbagliato. Ha smentito. E niente, insomma, e poi al decimo posto ci sta la Germania, che sarebbe la prima. Quello che diciamo prima, a noi non ci frega niente, cioè onestamente, da vicino. Sì, perché tanto ormai la ricchezza è talmente concentrata in pochi che a noi che siamo i decimi o siamo i centesimi, c'è sempre una vita di merda, famo. Certo. Nel frattempo qui partono cose sbagliate. Non volevamo farlo, poi però ci siamo sbagliati sul tubo e abbiamo messo, cioè non abbiamo messo la traccia, l'abbiamo dovuta prendere dal tubo. Non vedevo sta spiega tutto. Dai, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, cosa abbiamo ascoltato sotto le nostre ciance? Beh, l'internazionale in piedi, l'abbiamo ascoltato. In piedi, la versione cinese rock fatta dal gruppo Tang Dynasty. E invece ora che ci sta? I Gang con una delle mie canzoni partigiane preferite. L'ho sempre amata molto, Festa d'Aprile. Ce ne stanno molte versioni molto belle, questa è interessante. Da capo. Io preferisco quella del coro delle mondine. Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano, ma se per caso incontrano i partigiani, per saltare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, impuria la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice il borghese. Da qualche settimana per i cari tedeschi maturano le nespole persino sui peschi. Il caro dice il Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che giunta l'ora, impuria la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Allora, questa era festa di aprile dei Gang, invece io per cianciare ancora sopra ho messo i Gang. Venite, quindi i fratelli Severini. Venite piano piano, che fra la febbre e il gelo, fra la neve. Insieme in questa versione al buon Monceri. Ci sta aprile. Si chiama Aprile e vabbè, volevamo finire il pensiero di prima, perché poi sì, insomma, il pensiero di prima, che sostanzialmente con il capitalismo finanziario, che è una degenerazione del capitalismo, che già di per sé è una degenerazione, in realtà, che la concentrazione della ricchezza sia nelle mani di così pochi, paradossalmente è quasi un bene, perché nel tracollo dell'Occidente a noi sostanzialmente ci tocca relativamente poco, perché quello che ci devono fare già ce l'hanno fatto. Cioè, alla Grecia gliel'hanno fatto in 2 anni, a noi ce l'hanno dilazionato in 20-30, però cioè, ci siamo tutti impoveriti, abbiamo perso le diritti, è finito il periodo, può andare peggio ovviamente, potrebbe piovere, direbbe. Sì, però appunto, cioè, il fatto che quello lo farà per via dei cambiamenti climatici, comunque pure quello, sai. Sì. Ma il mondo è un pochino, un tantinello problematico in questo però, in questo periodo c'è tanta, però bisogna vedere pure la luce. Positivo, che ci sta, sì, cioè, secondo me l'ora, dicevamo, l'ora più buia, cioè quella prima dell'alba. Te, nelle canzoni, nei documenti storici che abbiamo ascoltato, sostituisci tedeschi con americani ed è attualizzato tutto al 2024, cioè viviamo una fase di transizione. Ovviamente le alternative sono due: o la transizione arriva al termine o finiamo inceneriti in un olocausto nucleare, certo. Ma che l'impero abbia paura. Non è una cosa, diciamo, che noi non dobbiamo aver paura del crollo di questa forma di governo mondiale, gli Stati Uniti hanno avuto di distribuzione dei poteri a livello mondiale. Non dobbiamo aver paura della fine di questo, perché noi, appunto, da tra virgolette proletari, anche senza virgolette, ormai non abbiamo nulla da perdere se non le nostre catene. Però d'altronde, cioè, un colpo di coda potrebbe generare una catastrofe peggiore delle catastrofi che già abbiamo generato, appunto. Ma il colpo di coda è dovuto al fatto che per la prima volta questi hanno davvero paura. E si sente, si vede. Cioè, il fatto stesso che ti impongono una propaganda a cui non crede nessuno. Noi pensavamo di morire democristiani, no? Se diceva. A proposito di democristiani, manco mia madre, che è una quasi ottantenne democristiana, vede il telegiornale, ma questi stanno a dicazzate. Cioè, il fatto che lo dica mia madre. È un po' quella roba lì, no? Che quella costruzione mediatica per cui esistono i regimi. Non che non esistano, esistono. Sì, ma quando l'anziana signora te crede più, che ti ha sempre creduto e ti dice stai a dire. Forse dovremmo cominciarci a porre delle domande rispetto a. Sì, io sono. A quanto stiamo vivendo e se viviamo in quella democrazia che i partigiani oggi e anche il socialismo, anche delle forme, no, che abbiamo vissuto, sì, comunque di conflitto che di classe, sì, possano essere ancora recenti. Non crediamo che il conflitto di classe non possa essere soppresso, lo fagocitiamo in tutti i modi. Però, insomma. Sì, poi appunto l'imperialismo, fase suprema del capitalismo, non riesce più a rigenerarsi neanche facendo una guerra dopo l'altra, perché nell'imperialismo le guerre funzionano se le vinci, se le perdi a raffica. Insomma, quando pure gli Houthi ti dicono sì, te me bombardi, come effetto collaterale, allora come effetto collaterale, che non è tanto collaterale e che è sempre una cosa tutto il mondo si sta ribellando, certo, però appunto pure tutto il mondo si sta armando, e questo non armando armando la parte di mondo che non vuole cedere. Sì, diciamo attualmente appunto quelli che stanno pagando e che pagano ormai da decenni, dalla fine del colonialismo al neocolonialismo in poi, sono sempre i più poveri, insomma, no? Adesso è la volta dell'Ucraina, che è diventata il territorio dei proxy, dove si manifesta questo attrito, diciamo, di ordine, e dove stanno usando proprio i fascisti storici, certo, per fare i cazzi loro, certo. È proprio questo. Questo conviene, succede sulle spalle dei palestinesi, questo succede sulle spalle, quindi diciamo la nostra intelligenza politica sarebbe il fatto che l'Africa cacci evitare appunto che muoiano sempre gli stessi, cioè, il fatto che muoia nessuno, per carità, ma che soprattutto non muoiano sempre, ragazzi, gli stessi. Voi non vi rendete conto del fatto che una delegazione americana va in Niger e gli dice bella ciao, sì, non bella ciao, ciao ragazzi, siamo molto felici di essere qui, voi dovete fare così. E i nigeriani, che fino a ieri gli dicevano sempre sì, ok, allora gli dicono sai che c'è? Vattene. E questi se ne sono andati. Sì. Cioè, diciamo, loro, in Niger e la Francia sono stati cacciati subito fuori perché è la potenza imperialista. Gli Stati Uniti hanno una base là, cioè hanno un ruolo più defilato, hanno cercato di non farsi notare più di tanto. Finché noi hanno mandato la delegazione diplomatica. Esatto, quando le acque si sono calmate, hanno cercato di fare una entry, hanno detto voi, ci eravamo dimenticati, no, dovete andare pure fuori voi, gentilmente. Andate, fatevi dalle palle pure voi. E questo è sintomatico che il sud del mondo il suo lavoro lo sta facendo, dovremmo farlo bene anche o male, sempre con le dovute contraddizioni fortissime, quando la rivoluzione non è un pranzo di gala, e lo dovremmo fare pure noi, perché quando arriverà Crosetto che ci dice ragazzi bisogna fare la leva obbligatoria perché dovete andare a morire per i cazzi miei, certo, noi dovremmo pure trovare la forza, l'unità per dirgli sai che c'è, Ho fatto il gesto. Però tutto il lavoro appunto che hanno fatto in questi anni di ammiglimento, di distruzione di quelle che potevano essere poi alcuni riferimenti. Poi invece ma... no, io mi fido molto dei ragazzi, dei giovani che ci stanno mo' perché sono figata, insomma. Ma sì, sono così poi le dinamiche si sono talmente accelerate che un soggetto nuovo, io credo che possa diventare. Bisogna lavorarci, bisogna lavorarci, ma sono fiducioso. L'alternativa è guerra termonucleare globale, ma anche lì ti saluto, è una frazione di secondo. Ci stanno, ci stanno dei pazzi scatenati, le cricche famose dei miliardari che se fanno i loro bunker o pensano. No, pensano, quello è un altro discorso. Ereditano una terra un giorno, piena di scarafaggi. Un giorno faremo una trasmissione con te su con Pogol Pongide riguardo la fantascienza, che è un altro genere che ci. Sono anni che dico di fare questa cosa. Famola strana. Si fa la famosa stranissima. Pogol Pongide ha scritto un bel libro che illustra ormai da qualche anno, da 3-4 anni, io per quanto che illustra il cinema, nuovo capitalismo, no, lui il capitalismo spaziale, di come, cioè tutta una serie di soggetti capitalistici e anche meno capitalistici hanno cominciato una nuova corsa allo spazio, perché appunto poi probabilmente anche la guerra nucleare potrebbe essere tutto sommato una volta che hai fatto la colonia su Marte si può pure buttare la terra, tanto ormai è compromessa dai cambiamenti climatici. Qui stiamo andando molto oltre, ma vi assicuro che certi tipi di ragionamenti si cominciano a fare ormai non da adesso, ma ormai da 10 anni. Ah sì, questo sì, però appunto, cioè, non rendiamogliela troppo facile. Facciamo il lavoro nostro. Facciamo il lavoro nostro. 25 aprile. Il resto del mondo lo sta facendo. Liberazione, abbiamo ascoltato tanti audio. E poi, scusate, sì, a chi c'ha meno di 30 anni, ma quando mai voi avete visto L'impero aver paura? Io non me lo ricordo. Cioè, ce n'ho, ahimè, 50 appena c'è compiuti. C'è. Per mezzo secolo. Noi l'abbiamo superato abbondantemente. E tu l'hai mai visto L'impero aver paura? Così isterici, l'hai mai visti? Bah, insomma, c'è pure chi dice che dal Vietnam in poi non è che abbiano combinato proprio sì, tanto. Sì, ma la paura, la consapevolezza. Certo. Tutto sommato, quella era uno scontro ancora interpretabile nell'ottica dei blocchi. Per capito, cui... il crollo, il declino. Per cui, anzi, poi dopo c'è stato appunto il crollo dell'altro blocco, si direbbe, ma insomma, poi appunto è questo, come dici te, queste analisi molto trionfalistiche che in realtà non tengono conto né della storia né della geografia e né degli interessi delle singole persone, delle diversità che esistono nel mondo, cioè tutti ecco la cosa bella, diciamo, del marxismo, poi per carità con tutte le complicazioni del caso, era appunto questa roba dei proletari di tutto il mondo unitevi, no? Nel manifesto, perché cioè non c'è altra alternativa, insomma, non riconosce socialismo barbarico nel riconoscersi al di là delle differenze nel proprio ruolo di sfruttati, e di sfruttate c'entrano pure tutte le, tra l'altro dentro questa roba lo sfruttamento primario, che è lo sfruttamento di genere, è assolutamente quello ecologico è assolutamente compatibile e assimilabile, bisogna misurare bene gli strumenti. Tu ovviamente lo sai che il gran vecchio De Treviri già nell'Ottocento parlava del problema tra capitalismo ed ecologia, certo, e ambiente. Certamente, beh, le situazioni, anzi, diciamo, se vogliamo, il capitalismo, la situazione di Londra dell'Ottocento era pure peggio. Sì, perché c'erano le fabbriche a carbone all'interno della città dove questi ragazzini lavoravano 16 ore al giorno, insomma. Quindi appunto, di strada se n'è fatta tanta. Abbiamo concluso la puntata col gran vecchio De Treviri. Direi che sono contento. Più vetero di così non più si poteva. Vetero di così. Non si poteva. Mo' mi tocca scegliere una traccia di conclusione prima della sigla. Lo facciamo. con una roba viterissima. I Disciplinata. Ah, i Disciplinata ce l'avevamo, è vero, hai ragione, hai ragione. Disciplinata che era il 18 aprile. 18 aprile, benissimo. Abbiamo parlato di Democristiani. Non parla, non dice il suo tormento. La traccia numero 8 da un disco storico, questo si può dire veramente storico, che era edito dal Manifesto Materiale Resistente del 95. Ce l'ho. Siamo vetero, Porca miseria. Eccola qua. Siamo diversamente giovani. Dobbiamo chiudere, è tardissimo. Ci, tra l'altro domani dobbiamo andare tutti in piazza, quindi dobbiamo correre a casa e cercare di fare qualche ora di sonno. Poi io ho tutti i miei rituali del 25 aprile mattina, di lavarmi, ma farmi la barba. Ma l'hai presa l'asta della bandiera? Sta di qua, sì. Ti ho portato l'asta della bandiera, cioè, comando, io delego perché domani invece devo stare a casa per forza. Cioè, no, bandiera cinese, sicuramente qualcuno del PD si incazza. La cosa mi dà incredibile piacere. Mi raccomando, non raccogliete provocazioni, perché sicuramente, soprattutto se stanno per terra, appunto. Allora, no, è più forte di noi, vabbè, un po' perché Comunque il 25 aprile ci mette allegria, insomma, in qualche maniera. Per me è il mio Natale. Ma sì, perché poi appunto sempre io ho anche piacere proprio ascoltare queste robe dei partigiani, perché appunto ti a un certo punto sono incredibili, sono una memoria che non possiamo assolutamente perdere. Ma guarda, io ti aprono proprio il cuore rispetto, cioè anche di un'umanità pazzesca, insomma. Io il periodo in cui lavoravo nei musei, dicevo sempre: mettetemi di turno a Natale, a Capodanno, quando vi pare, ma sappiate, se mi mettete di turno 25 aprile e 1 maggio mi do malato. Quindi mai lavorato questi due giorni. E invece, capito, invece come si dice? Il mescevico qui davanti. Mescevista. Allora, le trasmissioni di Onda Rossa vi finiscono qui in diretta per questo 25 aprile. Domani continueremo anche le corrispondenze dai cortei, ovviamente, dalle varie tante iniziative che ci staranno in giro per la città, in giro per tutta Italia, per celebrare e, come dire, anche preservare questo 25 aprile da... E non lasciarglielo a loro. Non lasciarlo alla diluizione. Loro, con la L maiuscola. Alla snaturalizzazione di quello che è il significato originario dell'antifascismo. Quindi si inizia con la lettura delle prime pagine dei giornali, la segna stampa cittadina, redazionali, le repliche dei contenuti informativi per un'oretta all'ora di pranzo, poi si prosegue con tutta scena cinematografica, blues, la schiena del sole, tarantola, tabula rasa. Ho detto una cosa che non c'è più da 15 anni. E poi anche e questi sono i 25 aprile che si accumulano. I cuginetti di Apostasia. Alla fine a chiudere. Quando hanno voglia. Però di 25 aprile chissà che qualcuno dice: no, me ne vado ai cortei, me ne vado. Quindi, insomma, non prendete tutto per oro, quello per oro colato, quello che abbiamo raccontato. Le trasmissioni quindi finiscono qua. Noi salutiamo tutte e tutti coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità. Ricordiamo che ci sono ancora tre palestinesi in carcere da ormai diverse settimane e più o meno ancora soggetti alla spada di Damocle, nonché pure tanti anarchici che ancora si trovano nelle carceri italiane. Ma noi appunto amiamo e diamo sempre al popolo incarcerato tutto il nostro abbraccio, il nostro saluto più importante. Dicevamo carceri, centri di detenzione per migranti, e arresti domiciliari e tutte le varie imposizioni amministrative che subiscono tante tante persone in questo paese a proposito di regimi. E ci vediamo domani in piazza, dai. E noi ce ne andiamo sotto la luna comunista.